Ma il sistema, secondo appunto la legge che, è stata, appunto, che viene modificata dal decreto legge, quindi che risale al 2015, immagina in realtà un sistema unico, imperniato per l'appunto nello SPRAR, e vede gli attuali CAS solo come strutture temporanee da chiudere progressivamente, strutture temporanee nel senso che vengono aperte solo in caso di necessità e dalle quali già i richiedenti asilo devono essere trasferiti nel minor tempo possibile, dice la legge. Ora, chi ci ascolta sa benissimo che la realtà è molto diversa e queste strutture non solo non sono temporanee, ma dal punto di vista quantitativo assorbono purtroppo la maggior parte del fabbisogno, e il sistema SPRAR ha meno del 30% del numero complessivo dei posti, almeno fino a pochi mesi fa. Però dentro la legge c'era un'affermazione, una ratio molto positiva, che è quella appunto di andare progressivamente a chiudere le strutture straordinarie e realizzare un sistema unico fondato sull'accoglienza diffusa, sulla distribuzione territoriale, su standard elevati di qualità di accoglienza e soprattutto sul coordinamento, anzi sul ruolo prioritario degli enti locali nella gestione del sistema, come se appunto è sostanzialmente la gestione dell'accoglienza e dell'integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione fosse uno dei servizi socio-assistenziali del territorio. Quindi una prospettiva, devo dire, abbastanza avanzata, anche se non pienamente realizzata, anzi solo molto parzialmente realizzata. Quello che avviene, ho fatto questa lunga premessa perché questo fa capire ciò che avviene con questa gravissima riforma che riporta, direi, le lancette indietro di 16 anni, cioè al momento in cui lo SPRAR è stato inventato proprio con queste finalità. Dico la riporta indietro perché il sistema SPRAR non è più un sistema unico, ma al contrario diventa un sistema residuale per la sola accoglienza dei titolari di protezione, e mentre il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, come dire, passa interamente nella gestione diretta dello Stato attraverso le strutture appunto che conosciamo, strutture che inevitabilmente, perché questo è un accaduto, la legge non ne prevede affatto il miglioramento, ma li congela la situazione così com'è, e quindi ci dobbiamo aspettare il rinascere, se mai non sono morti, per così dire, di strutture più o meno grandi, del tutto avulse dal territorio, con servizi e con standard molto molto modesti, con presumibile abbandono a se stessi in larga parte dei richiedenti asilo, ma soprattutto con la fine, diciamo, di questa logica di arrivare finalmente anche in questo paese a concepire l'accoglienza non come un'emergenza, ma come un fatto normale in una società avanzata. Detto in altre parole, verranno sacrificati l'integrazione, i servizi, insomma, ma anche la trasparenza. Sì, assolutamente, perché nelle strutture, nei CAS, non è attualmente, in alcuni, in quelli più virtuosi o nelle prefetture che l'hanno previsto, proprio perché quello che era la logica della legge era quella di far assomigliare casomai i centri straordinari allo SPRAR in attesa del loro superamento, appunto alcune realtà si sono mosse virtuosamente in questa direzione e abbiamo esperienze di centri straordinari che sono ottime o buone, ma nel momento in cui invece la logica della legge cambia completamente, non ha più senso investire appunto non ha più senso ovviamente non dal punto di vista del contenuto, ma della logica della norma, non si investe più su una buona accoglienza e già sul misure di integrazione delle persone che sono nei CAS ma non avrebbero dovuto esserci perché dovevano essere nello SPRAR. Tutto questo viene spazzato via e come dicevo, per l'appunto ci dobbiamo aspettare, come dire, una situazione molto molto pericolosa dal punto di vista sociale, con strutture che saranno probabilmente delle bombe ad orologeria sul territorio, che dissiperanno moltissime risorse pubbliche, perché comunque i centri costeranno magari meno, ma costeranno e non produrranno nulla di buono sostanzialmente. Un'altra novità inserita nel decreto è lo stop all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Ora, noi sappiamo che in Italia alla residenza anagrafica sono connessi alcuni diritti come l'accesso alla sanità o la possibilità di trovare un lavoro. Con questo stop ci saranno delle ripercussioni? Allora, questa misura è sicuramente illegittima perché la residenza, per l'appunto, è un diritto soggettivo, fotografa una situazione di fatto che non può essere negata, tanto più in questo contesto in cui le persone sono accolte dallo Stato. Quindi, se vuole, c'è anche un paradosso, forse degno di una teatralizzazione quasi, nel senso che appunto è lo Stato che ospita le persone a cui poi non riconosce la residenza. Tra l'altro, la norma è contraddittoria in se stessa ed è contraddittoria con lo stesso col testo testo unico sull'immigrazione, che invece chiarisce che la permanenza oltre 3 mesi in una struttura di accoglienza appunto dà luogo sicuramente alla registrazione anagrafica. Quindi mi aspetto doverosi contenziosi sul punto. Il fatto che bloccare per esempio l'iscrizione all'ufficio del lavoro e bloccare la possibilità di lavorare per i richiedenti in mancanza della residenza configurerebbe tra l'altro una ulteriore violazione della direttiva europea sulla direttiva 33 del 2013 sugli standard di accoglienza. Insomma, quella della residenza è uno dei tanti giganteschi pasticci di questo pessimo decreto. Ecco, in definitiva rischiamo di avere persone che avranno più ostacoli ad inserirsi nel tessuto sociale, che questo lo dico io assumendomi la responsabilità, è il teorema su cui alcune forze politiche hanno tratto consenso. Sì, lo può dire con grande chiarezza. Io lo dico ancora di più, credo che questa riforma è la fabbrica del disordine, cioè la volontà politica che sta dietro questa riforma, cioè chiudere ciò che funziona per aprire per l'appunto, per potenziare ciò che non funziona e crea problemi, può avere come unica finalità quello di aumentare la percezione sociale negativa della presenza degli immigrati, in questo caso dei richiedenti asilo, perché le persone comuni, i cittadini, vedranno queste persone allo sbando, vedranno che non hanno niente da fare tutto il giorno, vedranno la loro scarsa, diciamo, no? Il loro scarso percorso di integrazione, e invece di chiedersi chi ha prodotto tutto questo, invece addosseranno la responsabilità al migrante e confermeranno probabilmente la propria opinione che sono troppi, non fanno niente, sarebbe il caso di mandarli via, eccetera, eccetera. Cioè questo è il disegno, come dire, sicuramente malevolo che sta dietro una riforma che altrimenti non ha una spiegazione razionale, come è proprio lo smantellamento dello SPRAR, è la cartina di tornasole più evidente dei veri obiettivi di questa riforma. È un sistema che era stato, come dire, portato ad esempio da tutti i governi, di qualunque colore politico si sono succeduti negli ultimi 16 anni, era l'unico modello che l'Italia presentava in Europa quando, come dire, veniva messa alle strette, per così dire, rispetto alle proprie mancanze. È apparentemente irragionevole che si vada proprio a smantellare questo tipo di istituto, a meno che non si comprenda proprio, ripeto, la malevola logica che ci sta dietro.